Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Un'università di Napoli ha firmato un accordo che consente agli iscritti alla UIL di vedersi riconoscere fino a 60 crediti per la laurea in giurisprudenza. E questo non è certo il primo caso di laurea agevolata, come racconta Sergio Rizzo dalle pagine del Corriere. Non c'è proprio niente di strano. Questo il commento del professor Federico Alvino quando due anni fa saltò fuori che nell'università con il record di docenti imparentati, la Partenope di Napoli, anche lui, preside di giurisprudenza, poteva vantare una parentela coi fiocchi. Sua moglie, Marilu Ferrara, è infatti la figlia di Gennaro Ferrara, ininterrottamente da oltre un ventennio rettore dell'Ateneo. Una parentela, inoltre, dalle spiccate venature politiche. Alvino è consigliere comunale di Napoli, capogruppo dell'UDC. Invece il suocero è vicepresidente della giunta provinciale. Deleghe, politiche scolastiche e diritto allo studio. Proprio niente di strano per come funziona l'università italiana. Che dire allora dell'ultima perla di cui si può fregiare il 37enne Alvino, uno dei presidi più giovani d'Italia? Qualche settimana fa la Partenope ha firmato con la UIL della Campania una convenzione che consentirà a chi ha in tasca la tessera del sindacato guidato da Luigi Angeletti di vedersi riconoscere fino a 60 crediti per il corso di laurea triennale in giurisprudenza. Uno sconto secco di un anno su tre. Come ottenerlo? Sentite che cosa dice la convenzione. In considerazione delle conoscenze e delle abilità che i lavoratori iscritti alla UIL potranno certificare in ragione delle funzioni e delle mansioni a loro attribuite, verranno riconosciuti 60 crediti al personale impiegato in attività di tipo tecnico, gestionale o direttivo. 50 crediti al personale impiegato in attività caratterizzate da conoscenze monospecialistiche. Ma sapete chi stabilisce i requisiti per avere diritto allo sconto? Ecco l'articolo 2 della convenzione. La UIL, Segreteria Regionale della Campania, si impegna a collaborare con l'università nell'individuazione dei requisiti nella fase istruttoria delle richieste degli iscritti. Cioè, la decisione viene presa insieme al sindacato. E se un iscritto alla UIL ha magari già fatto qualche esame in quell'università e vuole vederselo riconosciuto? Stropicciatevi gli occhi. Il riconoscimento degli esami stessi, ha scritto Luciano Nazzaro della UIL Campania ai suoi colleghi, sarà curato dalla stessa UIL. Ma per quanto possa sembrare inverosimile, convenzioni come quella appena stipulata dall'Ateneo delle 10 famiglie, come la definì nel giugno 2007 un articolo di Repubblica, nelle università italiane non sono affatto rare. Quando alla fine degli anni 90, con la riforma voluta dal centro-sinistra, vennero istituite le lauree triennali, si decise di riconoscere crediti formativi accumulati con l'esperienza lavorativa. C'era una disposizione europea. Ma in Italia l'opportunità diventò ben presto occasione per i furbi. Da lì al malcostume vero e proprio il passo fu breve. E il malcostume dilagò. Si arrivò a regalare i pezzi di carta. C'erano convenzioni che consentivano di vedersi abbonare anche tutti i crediti formativi del corso di laurea. Bastava discutere la tesi, e in qualche caso neanche quello. Naturalmente dietro pagamento di rette profumate. A che cosa servivano le lauree prese in questo modo? Prevalentemente a passare di grado nella pubblica amministrazione. Da impiegato a funzionario, da sottufficiale a ufficiale, da pizzardone a graduato, con relativo incremento di stipendio. Quando Fabio Mussi, 3 anni fa, arrivò al Ministero dell'Università, trovò questo sfacelo e stabilì il limite tassativo di 60 crediti, che sono pur sempre un anno di studio, cercando pure di introdurre criteri rigorosi per concederli. Ma evitare che lo sconto tocchi anche a somari con il solo merito di avere un tesserino nel portafoglio si è in seguito rilevato pressoché impossibile. Il giro di vite ha appena intaccato l'andazzo. Chi si stupisce di questo forse non sa che a metà 2007 l'Università Statale di Messina ha fatto una convenzione simile con la CISL. Anche in quel caso 60 crediti. Bastava avere un diploma di scuola media superiore e un posto di lavoro alla regione, o in una ASL, oppure in un altro ente pubblico. ma soprattutto essere iscritti al sindacato di Raffaele Bonanni, dettaglio essenziale per accedere direttamente al secondo anno di scienze politiche, giurisprudenza, statistica, economia. Ma è niente in confronto alle convenzioni che hanno firmato alcune università private telematiche. Convenzioni con la UIL Poteri Locali, la UGL Enti Pubblici, la RSU della provincia di Agrigento, l'Associazione Romana Vigili Urbani, l'Associazione Dipendenti del Ministero dell'Interno, il Centro Formazione Professionale Enti Padri Trinitari. Davvero niente di strano? Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Sergio Rizzo, L'università che regala un anno agli iscritti UIL, dal Corriere della Sera del 12 ottobre. L'Arte di Vivere con Lentezza è una ONG che cerca di migliorare il benessere delle persone partendo dal rallentamento dei ritmi individuali. Nel suo secondo libro dedicato all'argomento, Bruno Cortigiani, fondatore e presidente dell'organizzazione, racconta una serie di esperienze che gli hanno permesso di apprezzare i benefici di una vita vissuta senza fretta, come avviene in questo resoconto di un viaggio a Tokyo. Arrivato sul posto, ho subito capito che per conoscerla e farmi conoscere non potevo paragonare Tokyo a nessun'altra città che avevo visitato. Per non rimanere intrappolato nelle leggende metropolitane o nei racconti più banali sul Giappone, non dovevo avere schemi mentali precostituiti. Difficile per me. Ero andato a Tokyo per la mia cocciuta idea di celebrare in questa grande e caotica metropoli la terza giornata mondiale della lentezza. Non c'ero mai stato, non conoscevo nessuno, non sapevo da che parte cominciare. Per principio non mi affido alle guide turistiche. Prendiamo tempo, respiriamo profondo. Spostiamo la nostra attenzione sulla cartina della metropolitana e dei treni. 13 linee di metro corrispondenti a 13 fili coloratissimi che si intrecciano. Più uno tratteggiato in costruzione, due linee nere per due linee ferroviarie private e un serpentone bianco e nero che segnala la JR Line, la Japan Railways. Pensiamo al sistema che usiamo di solito per conoscere, per puro piacere, una città. Quello di muoverci su cerchi concentrici con epicentro nel nostro albergo. Lo scartiamo subito per due motivi. Non siamo qui per il solo nostro godimento e la città è veramente grande. È un immenso collage di quartieri, ognuno con il suo centro. Che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Un'università di Napoli ha firmato un accordo che consente agli iscritti alla UIL di vedersi riconoscere fino a 60 crediti per la laurea in giurisprudenza. E questo non è certo il primo caso di laurea agevolata, come racconta Sergio Rizzo dalle pagine del Corriere. Non c'è proprio niente di strano. Questo il commento del professor Federico Alvino quando due anni fa saltò fuori che nell'università con il record di docenti imparentati, la Partenope di Napoli, anche lui, preside di giurisprudenza, poteva vantare una parentela coi fiocchi. Sua moglie, Marilu Ferrara, è infatti la figlia di Gennaro Ferrara, ininterrottamente da oltre un ventennio rettore dell'Ateneo. Una parentela, inoltre, dalle spiccate venature politiche. Alvino è consigliere comunale di Napoli, capogruppo dell'UDC. Invece il suocero è vicepresidente della giunta provinciale. Deleghe, politiche scolastiche e diritto allo studio. Proprio niente di strano per come funziona l'università italiana. Che dire allora dell'ultima perla di cui si può fregiare il 37enne Alvino, uno dei presidi più giovani d'Italia? Qualche settimana fa la Partenope ha firmato con la UIL della Campania una convenzione che consentirà a chi ha in tasca la tessera del sindacato guidato da Luigi Angeletti di vedersi riconoscere fino a 60 crediti per il corso di laurea triennale in giurisprudenza. Uno sconto secco di un anno su tre. Come ottenerlo? Sentite che cosa dice la convenzione. In considerazione delle conoscenze e delle abilità che i lavoratori iscritti alla UIL potranno certificare in ragione delle funzioni e delle mansioni a loro attribuite, verranno riconosciuti 60 crediti al personale impiegato in attività di tipo tecnico, gestionale o direttivo. 50 crediti al personale impiegato in attività caratterizzate da conoscenze monospecialistiche. Ma sapete chi stabilisce i requisiti per avere diritto allo sconto? Ecco l'articolo 2 della convenzione. la UIL Segreteria Regionale della Campania si impegna a collaborare con l'Università nell'individuazione dei requisiti nella fase istruttoria delle richieste degli iscritti, cioè la decisione viene presa insieme al sindacato. E se un iscritto alla UIL ha magari già fatto qualche esame in quell'università e vuole vederselo riconosciuto? Stropicciatevi gli occhi. Il riconoscimento degli esami stessi, ha scritto Luciano Nazzaro della UIL Campania ai suoi colleghi, sarà curato dalla stessa UIL. Ma per quanto possa sembrare inverosimile, convenzioni come quella appena stipulata dall'Ateneo delle 10 famiglie, come la definì nel giugno 2007 un articolo di Repubblica, nelle università italiane non sono affatto rare. Quando alla fine degli anni 90, con la riforma voluta dal centro-sinistra, vennero istituite le lauree triennali, si decise di riconoscere crediti formativi accumulati con l'esperienza lavorativa. C'era una disposizione europea. Letture di Radio 24. La moda dei guerriglia store, i negozi di moda che aprono senza preavviso e chiudono nel giro di un anno, si estende ora anche ai ristoranti. E nelle case di Londra e New York nascono piccoli ristoranti privati che sfidano il monopolio degli chef. La casa di Kumiko stava nel cuore dell'East Village un po' più trasandato. C'era una porta uguale a tante, con il campanello e tutto il resto. E di fianco un piccolo garage che la donna aveva sapientemente trasformato. Apriva la saracinesca alle 6 di pomeriggio e l'abbassava quando le scorte di pesce erano terminate. Kumiko stava ai tavoli, il marito intagliava perle di tonno crudo e la figlia faceva i conti alla cassa. Accettava pochi dollari in cambio di una cena deliziosa. Il suo tuna tataki era sontuoso e impareggiabile. Disponeva di appena 3 tavoli e a volte d'estate la fila di quelli in attesa arrivava fino all'isolato opposto. Che la casa di Kumiko fosse un ristorante illegale lo sapevano tutti. Ed infatti una sera ci siamo arrivati davanti per trovarlo chiuso. Quello che non sapevamo era che a New York nell'anno 2007 si stava consumando una nuova e inesorabile rivoluzione culinaria, la nascita dei guerriglia restaurant. La storia era già iniziata con i guerriglia store, negozi ricavati dai luoghi più impensabili, vecchie carrozzerie, rimesse, palazzi in costruzione oppure da demolire, dove poter vendere abbigliamento anche firmato oppure di stilisti in ascesa. I guerriglia store potevano durare al massimo un paio di mesi, ma funzionavano e continuano a farlo. L'evoluzione della specie sono proprio loro, i piccoli ristoranti fatti a casa di qualcuno, dove sperimentare prelibatezze d'alta cucina. I primi esemplari sono arrivati sul mercato generalmente per rimanerci assai poco e magari riaprire altrove nel giro di poche settimane. Disponevano di un numero telefonico segreto e accedervi era facile quanto scappare dalla prigione di Guantanamo. La filosofia iniziale era quella di offrire cibo in cambio del costo degli ingredienti. Una forma di socialismo gastronomico che ha presto proliferato, un po' anche grazie alla crisi economica e alla quantità di chef disoccupati, in attesa di un impiego e vogliosi di rimanere in attività. Altri hanno sfruttato il concetto per aprire piccole scuole semiclandestine di cucina. Altri ancora, come Alice Grace, fondatrice della Salad Club a Londra, hanno creduto di fare un'opera a sfondo semi-assistenzialista. Questa è una città ostile e invitare gente a casa propria, creare una situazione intima e cucinare per loro, crea i presupposti per la nascita di un'amicizia. A Berlino, Shai Chef, un irlandese che gestisce un guerriglia restaurant piuttosto clandestino per 4 giorni la settimana, conferma: un ristorante normale è anonimo. Venire a casa di qualcuno ti obbliga a essere di umore gioviale, amichevole. Oggi il segreto non è più così segreto e lo spirito altruistico a sfondo sociale si è un po' dissipato. In America, lo chef Jeremy Townshend ha creato a San Francisco Ghetto Gourmet, trasformando il suo loft in uno spazio dove ogni lunedì, con $30, si assaggiano prelibatezze di ogni genere. Per accedervi, devi essere amico dell'amico dell'amico. Ma alla fine del fenomeno si occupano le riviste di moda e il giochino funziona anche a livello finanziario. A New York, i guerriglia restaurant, per così dire, ufficiali, sono oltre 100. A Londra sarebbero una 60, tutti ispirati al tipico paladar cubano, dove letteralmente si cena a casa di sconosciuti. Facebook e Twitter sono armi decisive per l'espandersi di questa pseudo-società segreta, che dunque sempre più assomiglia alla versione mangereccia di certi luoghi per single. A Londra, una delle più celebri hidden eatery, le trattorie nascoste ideali per non sentirsi soli, si chiama Salton Supper Club e vi si degusta una formidabile terrina d'anatra. Scovare la gemma gastronomica nascosta è un passatempo in crescita. Su marmiteloverblogspot.com si trovano le mappe di tutti i migliori guerrilla restaurant in giro per il mondo. Cogliere l'attimo, perché potrebbero sparire da un momento all'altro. E poi diffidare dei falsi oppure dei furbi. Thomas Keller, monumentale chef americano, creatore del celebre Per sé, dentro alla Time Warner Tower di Manhattan, $400 menù degustazione, prezzo fisso, si è dissimulato dentro le mura di un ristorante in costruzione per farci il suo personalissimo guerrilla restaurant. Lo hanno smascherato in fretta, si chiamava Ad Hoc e serviva porzioni a prezzi da capogiro. Chiuderà presto Keller, si sarà fatto pubblicità e al suo posto sorgerà un fast food dozzinale. Meglio la più autentica e ruspante Kumiko. Chissà se la ritrovo da qualche parte su internet. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Riccardo Romani «È l'ora dei guerrilla store, la moda dei ristoranti clandestini» da Io Donna del 3 ottobre. La riforma introdotta dal ministro Gelmini prevede anche la riqualificazione professionale dei collaboratori scolastici, noti un tempo come bidelli. Ridateci il bidello. Ed è confortante che si ricominci a chiamarlo così, e non più con nomi distaccati e poco affettuosi come collaboratore scolastico o peggio office manager, come vorrebbe una deriva finto efficientista. Probabilmente ha ragione Maria Stella Gelmini, che propone che i bidelli ricomincino a pulire le scuole e che non si appaltino più le pulizie all'esterno. E che con quell'aria da vetero professoressa forse di scuola se ne intende più di quanto non paia. Nell'anno dei grandi tagli, il primo scopo del ministro è certo quello di limitare gli sprechi, ma c'è sicuramente anche il bisogno di applicare logiche aziendali alla scuola e di riqualificarne le professionalità, a partire proprio dal pilastro più avvilito e bistrattato della piramide, il bidello appunto, cominciando anche qui a distinguere fra chi vale e chi no, fra chi fa bene il proprio mestiere e chi vivacchia su privilegi malintesi. È qualcosa di destra? È qualcosa di sinistra proporre una sfida del genere? Probabilmente è inutile chiederselo, perché potrebbe essere solo una versione del tanto invocato buonsenso neopragmatico e musica per le orecchie dei cittadini genitori che sono più tranquilli se sanno che i loro figli stanno in aule pulite e accuditi, vicino a maestri e professori, da una figura di nuovo rassicurante e sollecita e professionale. Non più la piccola casta furbetta che si nasconde dietro certificati medici per evitare ogni fatica, martoriata sui siti con storie poco edificanti persino dagli alunni, di cui avevano parlato anche Sergio Rizzo e Gian Antonio Stella nel loro libro La Deriva, dove ricordavano come la riduzione dei compiti dei collaboratori scolastici, rispetto a quelli dei bidelli di una volta, esentati da una legge del 1999 da mansioni come preparare i tavoli, distribuire i pasti, lavare, riordinare le stoviglie e rimettere a posto i refettori, avesse comportato spese altissime per lo Stato e qualche buffa conseguenza, come per esempio l'introduzione dell'inedita figura delle scodellatrici. Ben venga quindi una valutazione meritocratica del bidello e una speranza di riqualificazione per un mestiere avvilito. In fin dei conti, anche su questo piccolo pilastro della scuola si basa il futuro dei nostri figli. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Maria Luisa Agnese, da collaboratore scolastico a bidello. Bentornato! Dal Corriere della Sera dell'8 settembre.